Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è La risposta è cambiamento e uno spritz. L'audio è reso piacevole grazie al sapiente editing di Fedra Buscaro. Nei giorni scorsi ho parlato con la mia amica Marta, ciao Marta, che recentemente ha cambiato ufficio pur rimanendo all'interno della stessa azienda. Questo cambiamento, anche se non si trattava di qualcosa di radicale, le ha richiesto uno sforzo di adattamento che l'ha lasciata a sorpresa perché non si aspettava di sentirsi spaesata per ben una settimana. E tu? Pensa a un cambiamento di piccola media entità, quindi non a quella volta che ti sei trasferita o trasferito a vivere all'estero o quando hai avuto una coppia di gemelli, ma a qualcosa di più maneggevole. È capitato anche a te che quel cambiamento lì avesse un impatto emotivo inaspettato? Condivido con te due considerazioni. La prima è che siamo diverse e diversi ogni giorno, anzi per la verità in ogni momento. Quindi i cambiamenti impattano su come ci sentiamo a partire da come siamo nel momento in cui succedono, giusto? La seconda la chiamerei il metodo scuola dell'infanzia. Anche se non hai figli, saprai che non è che il primo giorno di asilo le famiglie arrivino, lascino lì i bimbi e tornino a prenderli a fine orario. No, c'è un periodo che si chiama inserimento. I bimbi vengono accompagnati poco a poco a stare nell'ambiente nuovo, in modo che il passaggio, il cambiamento, abbia un impatto che loro e i loro genitori possano gestire emotivamente. Una specie di scivolo verso la nuova esperienza. Si fa così. Al cambiamento ci si allena, si inizia da cose piccole per arrivare a cose più importanti e la misura di cosa è piccolo e cosa è importante è veramente super personale. Ed è proprio a proposito di questo che condivido due commenti interessantissimi che mi sono arrivati dopo il primo dei 4 incontri del percorso online in posizione strategica, yoga per abbracciare la postura. Il primo incontro di questa sera è stato proprio arricchente. Questo fine settimana avrò un incontro e uno scambio di idee molto molto importante per me e quello che ho appreso stasera mi sarà di grande aiuto. Grazie. La prima sorpresa è stata scoprire che sono meno statica di quello che pensavo, anzi sono in continuo movimento, a volte più pronunciato, a volte più piccolo e leggero. Perché sono interessanti questi commenti? Beh, perché parlano di cambiamento nel quotidiano. Perché praticare yoga, per come la vedo io, deve essere un'esperienza che esce dal tappettino, dalla lezione, dall'incontro. Ci cambia il punto di vista, mette insieme una visione diversa, più ampia, più integrata, e con quella visione, cambia il mondo. Le dirette sono i martedì di ottobre dalle 19:30 alle 21. Ogni incontro viene registrato e la registrazione resta online per una settimana. Vuoi partecipare anche tu? Sbrigati a contattarmi. La registrazione del primo incontro è disponibile ancora per qualche giorno. E lo spritz? Lunedì 10 ottobre, quindi lunedì prossimo, dalle 19:30 alle 21:30 a Teolo, Padova, guiderò una masterclass di yoga e mitologia in presenza. In realtà i posti sono esauriti da un paio di giorni, ma proprio stamattina se ne sono liberati due. Quindi, se lunedì vuoi unirti al gruppo, scrivimi subito. Cosa c'entra lo spritz? Se hai vissuto in Veneto, non leggere oltre. Se non hai mai vissuto in Veneto, devo dirti un paio di cose. La prima è che lo spritz, fuori dai confini regionali, ha un costo assurdo. Lo so che per te è una cosa normale, ma noi che siamo cresciute e cresciuti nella patria dello spritz, ci sentiamo male quando ce lo fanno pagare come un cocktail esotico. La seconda è che lo spritz deve avere dentro l'oliva. Su questo non si può assolutamente transigere, dico davvero. Hai fiducia, hai curiosità di iscriverti a un percorso di yoga online guidato da me senza averne ancora la descrizione sul sito? Il fascino degli dèi. 4 incontri online di yoga e mitologia. Giovedì 3, 10, 17 e 24 novembre. Dirette dalle 19:30 alle 21. Registrazione a disposizione per una settimana. Mercoledì 12 ottobre, cioè mercoledì prossimo, aggiornerò il sito con la descrizione specifica dei contenuti di questo percorso. Per ringraziarti della tua fiducia, il contributo di partecipazione per te sarà di 50 euro, ma solo entro mercoledì 12 ottobre, perché da lì in poi il contributo sarà di 80 euro. Scrivimi entro il 12 ottobre. Mi insegni yoga? Lo sai che puoi guidare la pratica seguendo i dettami della scuola che ti ha formato e allo stesso tempo usando il tuo approccio autentico, genuino, personale? Quando riesci a farlo, il tuo sostegno alle persone che ti seguono è enormemente più efficace. Vuoi trovarlo insieme a me in un percorso personalizzato solo per te? Beh, contattami per fissare una telefonata esplorativa. Le parole che ho scelto per noi oggi sono della poeta Rupi Kaur, dalla raccolta Homebody. Se riuscissi ad accettare che la perfezione è impossibile, su cosa smetteresti di ossessionarti? Un abbraccio imperfetto, caldo e luminoso. Laura.